Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Sembrava che non ci fosse più alcuna speranza. Chiese dei volontari e delle idee, ma nessuno si fece avanti. Quando? Eccellenza, sono il pifferaio al vostro servizio. Potrei esservi utile. Tu sei solo un povero pifferaio. Come pensi di riuscire dove i soldati hanno fallito? Ipnotizzerò i topi al suono di una melodia e li porterò lontano dalla città. Bravo! Eccellente idea, figlio mio. Comincia pure. Da parte della cittadinanza ti auguro buona fortuna e ti assicuro che se riuscirai nel tuo scopo, verrai lautamente compensato. Quanto è lautamente compensato chi suona il piffero? Potrebbe essere un appendice delle tante riflessioni che si fanno oggi sui mega cachet della televisione pubblica. Ma vorrei entrare più nello specifico. Il pifferaio magico, il pifferaio di Hamelin, la favola tedesca poi ripresa dai fratelli Grimm, è una grande metafora di una persona che ha uno strumento in più rispetto al resto del mondo. È un fatato strumento che ha il potere fascinatorio, ha il potere di essere seguito da alcune persone. Il piffero è uno strumento di seduzione. Sedurre vuol dire portarsi dietro, portarsi con sé. Con il piffero il pifferaio seduce in ugual maniera i topi, i parassiti della città, della società, che porta a annegare nel fiume, ma vindice verso la società che non gli riconosce il giusto titolo del suo saper usare il piffero meglio degli altri, porta via anche i bambini. Poi non sa bene che fine facciano, fa affogare anche i bambini, fa scomparire, li fa sparire. Beh, oggi la figura del pifferaio, devo dire, è una figura fortemente amplificata dalla visibilità. Chi sono oggi i pifferai? I pifferai sono coloro che hanno il dono dell'intelletto, almeno così dovrebbe essere. Il pifferaio è sempre stato colui che riusciva a sedurre le masse. Le masse venivano sedotte o dalle banalità, da ciò che volevano sentirsi dire, è una cosa molto, molto corrente. Dietro c'era sempre un pensiero forte, la cui facoltà e capacità di decodifica riuscì a essere affascinante. Vi siete posti mai il problema che oggi sia l'intellettuale? Sì, perché oggi voglio fare una trasmissione sugli intellettuali, quindi cominciate a spararvi in testa, cominciate a spegnere la radio, cominciate a minacciarmi di morte. Voglio parlare degli intellettuali. Io cosa sono, un intellettuale? Ma non lo so, boh. Mi ricordo che dopo qualche tempo che iniziai questo mestiere di parlare alla radio, tornavo tronfio nella mia cittadina di provincia, si sentiva in qualche piccolo stralcio di radiofonia pubblica 30 anni fa la mia voce, e mio padre mi diceva, guardandomi sempre con disprezzo: adesso che hai imparato a mettere due parole in fila, chi ti credi d'essere? Eh sì, perché rispetto a delle tradizioni familiari non mi guadagnavo il pane con la vanga, con la zappa, con l'aratro, con la falce, metaforicamente, non mi guadagnavo il pane faticando e sudando, ma semplicemente usando lo strumento fonatorio animato e mosso dal cervello. Quindi ero un intellettuale, chiacchieravo. Le chiacchiere non fan farina, è un altro motto delle mie contrade. Quindi non facevo farina, quindi chiacchierando avevo un ruolo nella visione arcaica della realtà inferiore rispetto a un fabbro, rispetto anche a un medico, a un avvocato, a un contadino. L'intellettuale quindi è qualcuno che usa come parte organica interessata alla sua attività professionale il cervello, parte tutto dal cervello, e ha meno dignità rispetto a chi usa le mani, un bravo artigiano, un bravo operaio, una persona fa un lavoro manuale, usa i piedi, un calciatore ad esempio, personaggio che oggi ha un grande carisma, non è un intellettuale, usa i piedi, guadagna moltissimo. Oppure, non lo so, ci sono persone che possono usare il pisello, paradosso, lo dico in maniera provocatoria, c'è chi anche si guadagna il pane usando il proprio fascino virile. Guardate, la parola fascino era per i latini assimilabile alla parola fallo. Il fascinum era anche il fallo, ma era qualcosa che affascinava. Quindi vedete che in fondo ci si può guadagnare facilmente da vivere anche usando il piffero. Il pifferaio magico è un ibrido che mescola linguaggi e identità. Può suonare di destra e parlare a un pubblico di sinistra, Saviano, Travaglio, oppure venire da sinistra e andare a destra, Fallaci, Pansa. Può parlare con un linguaggio di destra alla sinistra e un linguaggio di sinistra alla destra, Baricco. Mescola stili e schemi, giornalismo e letteratura, storiografia e fiction, cinema e romanzo, satira e informazione, in un qualcosa che non è più scindibile nei suoi componenti, ma è reso autentico e incendiario dall'esplosione del suo ego, la finzione autobiografica di un io narrante che ha funzione apparentemente testimoniale. Chi ha scritto queste parole è un intellettuale del piffero, ma sono tratte da un libro intitolato Intellettuali del piffero, come rompere l'incantesimo dei professionisti dell'impegno, Marzullo Editore, libro fresco di stampa e appena apparso in libreria, scritto da Luca Mastrantonio. Luca, buongiorno. Buongiorno. Luca Mastrantonio è un giornalista del Corriere della Sera, lavora nell'inserto settimanale La Lettura, è stato responsabile cultura e spettacoli del Riformista. Luca, è difficile scrivere un libro sugli intellettuali del piffero senza fare una sorta di profonda, radicale, dolorosa autocoscienza e dire quanto io sono intellettuale del piffero? Io lo sono in assoluto, perché parlo, quindi suono il piffero. Guarda, io ti dirò di più, io rientro in una categoria specifica e anagrafica che c'è in fondo al libro, che è quella del giovane trombone, che è un'immagine fantastica usata da Calvino e da Vittorini per esprimere quei giovani che fanno i vecchi, che simulano la gravità nel tono di voce per potersi relazionare con i grandi. Chi sono i fantastici quasi quarantenni di oggi? Esattamente, gli aspiranti settantenni. Il punto è che in Italia abbiamo, però, la colpa non è solo dei giovani, la colpa di una classe intellettuale dirigente che a 70 anni invita i giovani a ribellarsi, a indignarsi, a fare la rivoluzione. E quelle sono le vecchie trombette, cioè quelli che mettono dei suoni striduli, che vanno in piazza, Camilleri che scrive poesie degne degli insulti di Bossi, anche Umberto Eco quando fa movimentismo con appelli su appelli, quando Eco ha sempre scritto che gli intellettuali non devono scrivere appelli, se c'è un problema chiamassero i pompieri per spegnere un incendio. Quindi i giovani tromboni hanno solo una scusante, che sono la reazione sbagliata di una classe di incendiari di 60-70 anni che invitano i giovani a ribellarsi ai padri e li castrano, perché se mio padre mi dice di ribellarsi a lui, io non posso ribellarmi perché sto eseguendo il suo ordine, e quindi mi chiede di invecchiare precocemente, aspettare il mio turno, e poi, come nella favola del pifferaio di Amelie, le colpe dei padri ricadono sui figli. Allora, Luca Mastrantonio nel suo libro sta analizzando una figura di intellettuale, quello che vive di parole, quello che soprattutto oggi fa un'analisi della società, è l'opinionista, nella sua forma più deleteria e deteriore, l'opinionista televisivo, nella sua forma lievemente più alta è il fondista di prima pagina dei giornali più arrabbiati, è il giovane che ce l'ha sempre con qualcuno, che è arrabbiato, che è inviperito, che sembra sulle spalle abbia una storia millenaria, quando se no ha poche primavere. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Altro cotè dell'intellettuale del piffero, però è qualcosa di forse più strutturato, perlomeno che riguarda anche materie che in realtà hanno maggiore concretezza rispetto alle parole, anche se non considero futile il parlare e l'accavallare pensieri. Nell'ambito della divulgazione scientifica è un termine brutto, però nell'ambito anche delle certezze, noi in questi giorni stiamo vedendo ad esempio le chiacchiere che fanno gli intellettuali del piffero sul caso Stamina, ma in passato abbiamo lungamente celebrato Peana dell'immenso e immarcescibile Giacobbo, anche lui un intellettuale del piffero a modo suo. In qualche modo sì, indubbiamente, però lui, sai, si perde nel mondo della fantasy che poi viene spacciata come comunicazione scientifica, e quindi questo è tutt'altro discorso. Però è indubbiamente vero che laddove chiunque metta il suo cervello al servizio del consenso, cioè per cercare di ottenere consenso, si pone esattamente nella categoria che voi stavate esaminando. Quando lo fa in maniera retorica e subdola, come per esempio gli hanno fatto ieri sera le Iene con l'ennesimo servizio a sostegno della pratica Stamina, esibendo malati in croce che cercano una speranza quando si proiettano solo verso un'illusione, questi sono pericolosissimi tromboni della cultura che usano un mezzo potentissimo come la televisione per non comunicare, diciamo così, le evidenze, che non sono certezze ma sono le evidenze della scienza, ma per far passare un messaggio che in realtà tutti sanno, tutti quelli che hanno una qualche documentazione in materia, essere pericoloso dal punto di vista medico-sanitario, ma soprattutto pericoloso dal punto di vista della comunicazione, perché induce le persone a credere e a farsi, a costruirsi false speranze. Luca Mastrantonio, tornando all'ambito degli intellettuali del Piffero analizzati dal tuo libro, cos'è che manca oggi? Uno strumento di verifica della potenza dell'intellettuale, dello spessore dell'intellettuale? Qual è il consenso bieco che determina che l'intellettuale del Piffero diventi un maestro di opinione, un maestro di pensiero, abbia un suo diritto a esistere? Beh, oggi lo strumento più potente dell'intellettuale del Piffero è lo storytelling, cioè la narrazione, la capacità di raccontare una favola. E tu giustamente mi hai definito del Piffero, ma non sono un intellettuale, sono un cronista di cose culturali. Ma perché ci conosciamo da tanti anni, non lo posso permettere. Ho apprezzato la cattiveria che in questa espressione in realtà vuole provare a salvarli. Cioè l'intellettuale del Piffero è un intellettuale carismatico. Saviano che denuncia le Nietzsche Casalesi e fa sapere delle cose incredibili con questa sua forza testimoniale. Quindi avere una sorta di certezza inoppugnabile, lo dice lui, nessuno può metterlo in dubbio. Esatto, dicendo io ho visto, tu non puoi metterlo in discussione perché stai mettendo in discussione la sua esistenza. E lì lui, quando ha raccontato quello che succedeva a Casal di Principe, ha fatto il pifferaio che porta via i topi. È stato lautamente compensato economicamente, ma lautamente osteggiato sul piano personale con le minacce di morte. Poi però che succede? Che anche lui ha avuto una mutazione, diventa il pifferaio nero, cangiante, bipolare, che chiunque contro di lui lo gomorrizza. È come uno dei casalesi. Quindi quella grande... Non so se è meglio essere gomorrizzati o sodomizzati, comunque... tra tutte e due, sì. Però ecco, come difendersi da questo storytelling, da questa persuasione affascinante della narrazione? La scuola Holden fa 20 anni, ha vinto, è quella la fabbrica di Hamelin. Come? Mi rifaccio ancora più alla favola, cioè faccio il Piffero, racconto una favola, ma racconto la morale, una delle morali di questa favola, che è chi si salva nelle varie versioni dal pifferaio magico, chi resta indietro, chi non può seguirlo, chi lo ascolta con più attenzione, cioè un cieco, e uno zoppo. Noi dobbiamo imparare a zoppicare in maniera intelligente dietro e ascoltare e pretendere esattezza. Dico un'ultima cosa in ambito scientifico, visto che l'abbiamo anche trattato, la fragola pesce. Della fragola pesce non ci sono tracce, che questa metafora con cui gli anti-OGM come Mario Capanna in televisione vanno a dire stiamo creando dei mostri, delle fragole che sanno di pesce, anzi che non sanno di nulla. Ci sono stati dei vani tentativi, ma dire che la fragola pesce non ha alcun sapore significa dire che l'hai mangiata, ma se non esiste, come hai fatto a mangiarla? Quindi diciamo che l'intellettuale del Piffero che noi stiamo cercando di nucleare è un grande raccontatore di favole. I grandi raccontatori di favole del passato hanno creato l'epica, hanno creato la narrativa, hanno creato filoni romanzeschi. Quelli di oggi che tempo lasciano? Ci diciamo un istante, fra un istante, dopo le informazioni del traffico. Melog. Cronache meridiane. Qual è il sogno di Melissa Panarello? Fare sesso in un confessionale con un prete. Intervista a Vanity Fair. E per paura che la gioia diventi noia, Melissa P. cambia clamorosamente posizione. A metà 2013 inizia a collaborare con quel giornale che l'aveva massacrata per i suoi libri immorali. Scrive articoli sul maschio in crisi e sulle donne troppo aggressive. Fa insomma la pitonessa domestica del centrodestra. Vabbè, qual è la differenza tra il sogno erotico di Melissa Panarello e quello che ha animato generazioni secolari di beghine, di zelatrici, di frequentatrici di parrocchie e di confessionali? Stiamo parlando dell'intellettuale del Piffero, facciamo con Luca Mastrantonio, che è un giornalista del Corriere della Sera, che ha appena pubblicato un libro, appunto, Intellettuale del Piffero, come rompere l'incantesimo dei professionisti dell'impegno. Marsilio Editore. Luca, un attimo su Melissa Panarello, che però è soltanto un punto dell'estrema galassia femminile e delle grandi illuminate, le Concite De Gregorio, i corpi, il corpo è mio, no? Adesso non so, è diversa la cosa, ma adesso il tuo corpo è mio e lo gestisco politicamente. Ecco, io, così, per... ecco, diciamo le mediatrici del corpo femminile altrui, è diciamo le intellettualesse del Piffero, come si chiamano questa sorta di scorrettissimo? È una affermazione molto misogina la tua, direbbero le cose del linguaggio. Sì, loro io sono già morto vivente da tanti anni, quindi posso dirlo. Io le ho definite le ninfomoraliste, nel senso che Melissa Panariello, presentata all'anno zero con Panariello da Giulia Innocenzi, spiegava che il Bunga Bunga è una cosa crudele, che in realtà lei può essere libertina, ma con tutta un'altra classe, una questione di stile, quindi fa la morale di stile, ma soprattutto dopo aver scritto un romanzo in cui raccontava cose vere e false estreme, fa la morale su come le donne, come gli uomini devono comportarsi con le donne, ed è in compagnia ottima, perché anche Lidia Ravera, autrice di Porci con le ali, essenzialmente ci spiega come le donne e le ragazze di oggi si devono comportare. È incredibile, erano le liberatrici del desiderio femminile attraverso il corpo femminile, adesso sono le detentrici, non le mediatrici, si considerano proprietarie spesso di quello che possono fare altre donne del loro corpo. Io cito quindi alcune delle categorie fantasiose e immaginifiche del tuo magari libro. Magari fantasiose. Il fanto marxista, il vaffanculotto, il patriottismo merdaiolo, la demenza storiografica, la satiriesi giornalistica. Dammi qualche nome legato a queste categorie. Beh, ce ne sono tante. Metto il quadro, il punto è che il grande tema che c'è dietro anche questo libro è il bipolarismo, che non è un sistema elettorale, ma è una patologia, una schizofrenia che in questi 20 anni ci è stata inculcata da molti intellettuali che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Beh, la demenza storiografica essenzialmente riguarda intellettuali come Azor Rosa, persino Umberto Eco, che per esempio hanno sempre rivendicato la lezione dell'antifascismo applicata all'oggi, quindi hanno fatto una posizione antifascista al berlusconismo, e poi soprattutto Azor Rosa, quando non bastava dire come il fascismo, ha detto no, è peggio del fascismo. E allora lì qualcosa non tornava. Beh, deve ridare comunque un senso di missione e di giustificare la sua esistenza. Una volta esaurito un filone del male, se ne apre un altro. Stefano Moriggio, ricordo Stefano Moriggio, che è un filosofo della scienza, non storico, ben conosciuto dai microfoni di Melog, ha scritto anche la prefazione alla Storia curiosa della scienza del comico Flavio Oreglio, Salani, Milano, 2013. Vediamo, entriamo un po' nell'ambito che più ti compete, è quello del racconto della scienza delle cose esatte. Puoi elencarmi un pifferismo intellettuale anche in questo campo? Abbiamo dei grandissimi matematici, dei grandissimi professori, sono diventate le vere star. Nel suo libro Mastrantonio ne cita parecchi. Vediamo se riusciamo a dare il quadro anche rispetto a qualcosa che è un po' meno del futile parlare e di confezionare il nulla, la cosmesi del nulla dell'intellettuale contemporaneo che parla di politica, di attualità, di società. Beh, sai, c'è una questione anagrafica che stavate sfiorando. Quando anche il corpo docente, visto che parlavate di corpi, raggiunge una certa età, pur essendo ancora docente, si sente, come dire, autorizzato a smettere la ricerca per, come dire, spaziare in un campo molto più vasto che va dalla divulgazione alla fascinazione. Lo staffile dell'intellettuale diventa il catetere, questo vuol dire? In qualche senso sì, diventa un tutologo itinerante che al di là delle proprie competenze va a sputare sentenze ora a destra e ora a manca, a prescindere da quella che fosse la sua competenza iniziale, che l'aveva reso effettivamente credibile e stimato all'interno della comunità scientifica. E qui l'elemento della fascinazione torna ancora. Giustamente voi prima, ritornando nel merito, ricordavate, Mastrantonio ricordava il caso del pesce fragola. Sono pericolosi se pensate come anche una giornalista seria documentata come la Gabanelli ci ha fatto una trasmissione sopra, cioè il rischio che la fascinazione si traduca a vari livelli in un volano per l'ideologia qualsiasi sia la controevidenza disponibile. Questo è il vero rischio della fascinazione, quando invece di essere un mezzo per comunicare effettivamente quello che noi sappiamo delle cose con tutte le incertezze del caso, diventa il fine ultimo di persone che ormai raggiunto una certa età non hanno più niente da dire, quindi puntano sul fascino della loro personalità, oppure quando persone invece di documentarsi si affidano ai potenti mezzi di comunicazione che hanno di sua disposizione. Luca Mastrantonio, è un po' il fascino del grande vecchio quello che si sta giocando Scalfari, che si sta giocando la carta dell'illuminato, del quasi convertito, la lunga barba bianca, i capelli, c'è una sorta di ricalco iconografico di altri vecchi che hanno avuto grandi fortune con la stessa immagine di quasi santone. Beh, noi c'è un altro convertito che anche nel video, nel book trailer del libro, che è Quagliariello, che era di aria era di area radicale, che andò in Parlamento a urlare Luana è stata uccisa. Quindi effettivamente siamo in un momento di grande conversione, conversione molto laica e comunque resta spesso atea perché è puramente ideologica. L'aspetto anagrafico è fondamentale, prima veniva citato, questo è un libro che io ho scritto soprattutto per il ventenne che ero, quando non capivo che cosa stava succedendo in Italia tra gli anni, la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni zero, quando essenzialmente c'erano degli intellettuali che vivevano di rendita e non mettono impegno nulla, o meglio, impegno mettono il fatto che loro sono militanti e quindi le opere che non producono più in ambito scientifico, come magari si diceva prima, in ambito letterario, valgono molto se l'intellettuale è esposto. Per questo è un professionista dell'impegno ed è una pura speculazione. Grazie Luca Mastrantonio, grazie Stefano Morigi. La sigla ci porta via, abbiamo capito che sarà soltanto il senno del poi e sarà soltanto il futuro, i posteri decideranno chi sarà vero intellettuale, chi intellettuale del piffero.